24, i gialli della storia. Perugia, 3 ottobre 1990. È sera, Dino De Megni, noto uomo d'affari della città, sta rientrando nella sua villa in collina insieme a suo figlio Augusto di 11 anni. Nascosti in cucina, al buio, lo stavano aspettando due uomini armati. Dino De Megni viene legato e imbavagliato. I due banditi scappano portandosi dietro il bambino Augusto. Fuori dalla villa un terzo complice li aspetta con il motore acceso. L'auto sparisce nella notte. In quell'auto, nel buio della notte, i banditi portano via Augusto De Megni, un bambino di 10 anni. È il 3 ottobre del 90. Ancora una volta l'Italia precipita nell'incubo di un sequestro di persona. In quel momento, nell'ottobre del 90, nelle mani dell'anonima sequestri ci sono 7 ostaggi. E adesso il rapimento del piccolo Augusto determina una nuova partita a tre. Da un lato i rapitori, dall'altra la famiglia e dall'altra ancora lo Stato. Ma la posta in gioco questa volta è ancora più alta, visto che il rapito è un bambino di 10 anni. Oggi a Mix24 raccontiamo questa storia con la testimonianza del magistrato Fausto Cardella, il giornalista Alvaro Fiorucci e Francesco Zonno della Polizia di Stato, oltre ai familiari di Augusto. Dal rapimento di Augusto è passata un'ora. Suo padre Dino è riuscito a liberarsi dall'allarme, ma è troppo tardi. I banditi ormai sono già lontani da Perugia e hanno già cambiato l'auto del sequestro. Il piccolo Augusto però non si perde d'animo. Costretto a rimanere sdraiato sul pavimento dell'auto, si toglie l'orologio e lo nasconde sotto un sedile per lasciare una traccia di sé. Ma uno dei sequestratori se ne accorge. Augusto si prende uno schiaffo. Ero di turno alla Procura della Repubblica di Perugia e arrivò la telefonata che c'era stato un sequestro. Ricordo che venne a prendermi la polizia e velocemente cercammo di raggiungere l'abitazione dei De Megni. Ci ritrovammo tutti davanti alle due ville De Megni in via Assisane. Lì trovammo un gran viavai di polizia e carabinieri, ma soprattutto di grossi funzionari dello Stato. C'erano personalità davvero importanti dell'apparato dello Stato che si stavano già occupando di questo sequestro di persona. Polizia e carabinieri danno il via a una gigantesca caccia all'uomo. Più di 200 pattuglie vengono inviate sulle strade di Umbria, Toscana, Marche e Lazio. Per gli inquirenti, i sequestratori non possono essere molto lontani. Quella stessa notte, ad un posto di blocco al casello autostradale di Fabro, i carabinieri fermano anche un Alfa Romeo con 3 persone a bordo. Gli agenti controllano i documenti del conducente e chiedono informazioni via radio alla centrale. La prassi vuole così. Il guidatore è un sardo, una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Oggi però è pulito, dunque non c'è motivo per trattenerlo. Tutto lasciava pensare, come poi la prova avvenne successivamente, che si trattasse dell'auto usata dai rapitori. A poche ore dal sequestro, a parte il rinvenimento di un'auto bruciata, rivelatasi subito come l'auto del sequestro, dei banditi e di Augusto nessuna traccia. Solo un sospetto, ma niente di più, per quel sardo fermato al casello di Fabro. Che cosa faceva in giro a quell'ora di notte? Una sola cosa è certa. A quest'ora i sequestratori hanno ormai sicuramente raggiunto il covo dove terranno il bambino per chissà quanto tempo. 4 ottobre 90, primo giorno del sequestro. A Perugia arrivano gli investigatori specializzati in sequestri di persona. Sono stati inviati dal prefetto Luigi Rossi, direttore della Criminal Pol, e dal direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia, Gianni De Gennaro, per formare un nucleo da affiancare alla polizia locale, agli ordini della magistratura. Nei primi giorni sono stati analizzati nel dettaglio tutto quello che è avvenuto sulla scena del delitto, cioè l'abitazione in periferia a Perugia, dove furono aggrediti il papà del bambino De Megni e il bimbo stesso portato via, quindi tutte le tracce del luogo del delitto. E in città arriva anche un nucleo di uomini scelti dei NOX, il corpo speciale della polizia, diventato celebre con la liberazione del generale Dozier e di altri sequestrati. Sono loro il braccio operativo del pool investigativo. Attraverso i legali, la famiglia De Megni ha chiesto il silenzio stampa, ma non si sa se i rapitori del piccolo Augusto si sono fatti vivi ai telefoni delle due ville, quella del padre e quella vicina del nonno Augusto De Megni. La loro famiglia aveva una banca privata, si chiamava Banco De Megni, poi divenne Banco di Perugia, che poi fu venduto a un gruppo bancario di importanza nazionale. Augusto De Megni era un personaggio importante perché era il responsabile nazionale di un rito massonico. Lui era il grande maestro del rito scozzese, una massoneria che in Europa, nel mondo, ha un peso molto importante, e amici di Augusto De Megni Senior erano molti capi di Stato, molti diplomatici, molte persone influenti anche a livello di governo di paesi esteri. Nessun risultato a quasi 24 ore dal sequestro. Ogni pista, dicono, può essere quella giusta, ed è così che c'è quella dell'anonima sarda. Uno dei rapitori, avrebbe raccontato il padre del bambino sequestrato, ha detto poche parole con un forte accento sardo, ma potrebbe trattarsi di una mossa per sviare le indagini. La caccia ai sequestratori continua senza sosta. Le ricerche si concentrano nell'Italia centrale, ma è come cercare un ago in un pagliaio. I fermi e i controlli non portano ad alcun risultato. Agli investigatori non restano che i pochi indizi rinvenuti nell'auto bruciata e nella cucina di casa De Megni, dove è avvenuto il sequestro. Intanto, in quell'autunno del 1990, il rapimento del piccolo Augusto scuote l'opinione pubblica di tutta l'Italia. Oltre al piccolo Augusto, nelle mani dell'anonima ci sono altri 7 ostaggi. I protagonisti di questa industria del crimine sono principalmente 2. Da una parte ci sono i calabresi, che nascondono i loro sequestrati nell'Aspromonte, impenetrabile e irraggiungibile, terreno di un'omertà pressoché totale. Dall'altra i sardi, da sempre una delle più attive e pericolose organizzazioni criminali. Sono loro i principali sospettati del rapimento dei Megni. Nella partita a 3 tra i rapitori, lo Stato e la famiglia, la prima mossa tocca sempre ai sequestratori. Ma a casa dei Megni, a 3 settimane dal rapimento, il telefono tace. E l'attesa si fa sempre più snervante. Ti portano via una persona, non sai dov'è, devi fare di tutto per ritrovarla e per ritrovarla viva. E quale altra possibilità hai, quale migliore possibilità hai se non di tenere un contatto con la persona che ce l'ha o con la persona che è in contatto con quelli che ce l'hanno? E allora evidentemente il momento più brutto di un'indagine di sequestro di persona è quando il telefono non squilla. All'interno del gruppo investigativo, l'unico a fornire un'interpretazione di questo silenzio è l'ispettore Zonno. La sua esperienza gli dice che l'unica cosa da fare è restare calmi. In altri casi di sequestri di persona vi erano stati lunghi periodi di silenzio, il che dimostra, anzi, da conferma che l'organizzazione criminale che opera è tranquilla, ha raggiunto una base, un rifugio sicuro e si sta organizzando. Ecco, quindi questo è un segnale che tutto sommato non è neanche negativo, non hanno questa fretta. Ma se i rapitori sono tranquilli, la famiglia del piccolo Augusto non è disposta ad aspettare, e allora la partita ha inizio. La prima mossa è del padre del bambino. In un appello televisivo, Dino De Megni chiede che i sequestratori si facciano vivi. È un messaggio chiaro, la famiglia è pronta a pagare il riscatto. È un nostro desiderio particolare, chiaramente, far sapere ai rapitori che noi siamo disposti ad attendere un contatto che porti rapidamente alla liberazione di Augusto. E questo è il nostro desiderio, e rimaniamo in attesa di un loro contatto che debba avvenire in qualche modo a loro discrezione. Ecco, lei diceva anche che voleva dire qualcosa a suo figlio. Certamente, un nuovo invito alla calma, a comportarsi come sicuramente ha fatto fino adesso, perché noi stiamo facendo tutto quello che bisogna fare per riportarlo a casa. Per gli investigatori, la sola cosa da fare in questi casi è restare a stretto contatto con la famiglia del sequestrato e aspettare. Ma questa attesa passiva, per i familiari di un rapito, è snervante, intollerabile. E i De Megni a Perugia sono una famiglia potente, abituata a prendere l'iniziativa e a gestire gli affari a modo loro. È possibile, dunque, forse addirittura probabile, che il nonno di Augusto tenti il tutto per tutto per liberare il nipote. Intanto gli abitanti di Perugia scendono in piazza per manifestare per la liberazione di Augusto, mentre naturalmente le indagini continuano. È la fine di novembre. Dal rapimento di Augusto sono trascorsi 47 giorni, ma dai sequestratori ancora nessun segnale. I familiari e gli investigatori attendono disperatamente un messaggio, una lettera, una telefonata. Poi, finalmente, il telefono squilla. È il 20 novembre. Arrivò la telefonata con quella richiesta esorbitante, almeno così parve, di 20 miliardi di riscatto. Ecco, a quel momento era necessario dare fondo a tutte le capacità di negoziazione, di investigative, per far sì che ne arrivasse un'altra telefonata. Nel giro di tre quarti d'ora, fra la prima e seconda telefonata, noi riuscimmo a essere operativi per essere sul problema. E ovviamente si cominciò da quella telefonata in poi, con tutti i contatti che seguirono, a delineare il metodo, no? Da una parte richiesta sempre pressante dei soldi del riscatto, dall'altra una sempre presente richiesta da parte della famiglia di prove dell'esistenza in vita dell'ostaggio. Le telefonate si susseguono, ma la trattativa è difficile. Dopo poco si interrompe. Gli investigatori provano a lavorare sui pochi indizi raccolti con le telefonate. Ancora una volta, però, è il padre del piccolo Augusto a prendere l'iniziativa. Io, ecco, mi appello ai rapitori tramite i telegiornali e le reti nazionali perché vogliano farsi vivi con me al più presto, assicurando loro che stiamo facendo, io e la mia famiglia stiamo facendo tutto quello che è necessario e possibile perché Augusto possa trascorrere le festività con noi o quantomeno possa tornare quanto prima in seno alla sua famiglia. Sul fronte delle indagini intanto i risultati sono scarsi, gli indizi pochissimi, gli investigatori brancolano nel buio. L'unica pista possibile è verificare le segnalazioni e le soffiate che arrivano. Azioni di rastrellamento del territorio numerosissime effettuate in varie zone dell'Umbria e della Toscana specialmente. Mentre in tutta Italia continuano le ricerche, le perquisizioni e i controlli, lo Stato decide di elaborare una strategia nazionale nella lotta contro i sequestri, il blocco dei beni delle famiglie dei sequestrati. Da questo momento non ci saranno più trattative. Lo Stato ha scelto la linea dura. Il compito che Dino De Megna ha affidato agli avvocati che lo assistono non è semplice. Scovare rapidamente una norma, un articolo di legge, un precedente che gli permetta di scavalcare il blocco che la magistratura ha imposto sui beni della famiglia. La formula giuridica va trovata, ma il padre di Augusto, il bambino rapito 3 mesi fa a Perugia, non ha dubbi. Un ricorso contro il sequestro preventivo, deciso il giorno di San Silvestro dal giudice per le indagini preliminari, verrà presentato. Il ricorso contro il blocco dei beni presentato dalla famiglia De Megni viene respinto. La famiglia De Megni ha le mani legate. Nessuna trattativa è più possibile per la vita di Augusto. È il 17 gennaio 1991. Augusto De Megni è nelle mani dei rapitori da 105 giorni. Dino De Megni, il padre di Augusto, non ci sta e allora decide di giocare su un altro tavolo. Io credo che durante la trattativa, le poche volte che Dino De Megni ha avuto bisogno di un colloquio più immediato, più diretto o imprevisto con chi poteva poi raggiungere i sequestratori del piccolo Augusto, ecco, in questi frangenti Dino De Megni in qualche modo usasse i mezzi di informazione, i mezzi di comunicazione di massa, ossia concedeva interviste, parlava attraverso interviste, formalmente sembrava che non dicesse nulla di particolare se non elementi di circostanza, ma in realtà io ritengo che lui in quei momenti, in quelle interviste, parlasse anche coi sequestratori del film. Gli inquirenti continuano a ricevere segnalazioni e soffiate. Una sembra attendibile. La prigione del piccolo Augusto sarebbe nella campagna toscana, nei pressi di Volterra. Il supporto logistico che gli inquirenti stanno cercando è una piccola fattoria abitata da una famiglia di pastori sardi. È il luogo ideale per nascondere un ostaggio. Un podere suddiviso tra campi coltivati, pascoli e bosco. Per gli inquirenti non ci sono più dubbi. Non resta che intervenire. È il 22 gennaio 1991. Dal sequestro sono passati 110 giorni. È un'operazione di polizia che non ha precedenti. I Nox raggiungono l'obiettivo con 2 elicotteri. La fattoria è ai piedi di un monte che ha una strana forma a cappello floscio ed è interamente ricoperto da boschi. Una squadra atterra nella radura dove sorge la casa, penetra nel bosco e inizia a salire. L'altra squadra, dalla cima del monte, esegue la perlustrazione in discesa. Notammo una persona nascosta dietro delle fratte, lo trovammo accovacciato, venne subito immediatamente bloccato da noi, che lo tirammo fuori da questo anfratto e lo interrogammo immediatamente. Dapprima lui disse di essere un passante, di non sapere niente, di non conoscere nessuno. Ma la nostra attenzione venne attirata dal suo comportamento molto anomalo. In pratica lui volgeva lo sguardo sempre nella stessa direzione. La nostra attenzione venne indirizzata tutta in un punto e sotto un finto tappeto di foglie trovammo questa botola di legno. Tolsi questa botola e con mia stupore notai che invece era l'inizio di un corridoio. Mi sporsi in questo corridoio e a circa 4-5 metri notai il bagliore di un'arma. L'agente dei Nox e il rapitore si fronteggiano come in un duello, ma è un duello psicologico, fatto di persuasione, minacce, promesse, ma i Nox sono addestrati anche per questo. Dopo circa 2 ore il rapitore si arrende e Augusto è libero, anche se le sue emozioni sono ambigue. Quegli uomini con cui ha passato più di 100 giorni non sono dei nemici. È stato trattato bene, con attenzione. Come sei stato trattato? Ma no, quello lì bene, avevo pasti caldi quasi, sempre la cena. Certo, a pranzo mangiavo poco, però mi hanno trattato bene. Senti, oggi quando quello lì ti teneva la pistola puntata hai avuto paura? No, lui sotto sotto me lo diceva che non sparava. Sì. Io mi fidavo di lui. Effettivamente le prime 2 o 3 ore non che siano state difficili, ma però si notava questo che lui soffriva dal distacco delle persone con cui era convissuto per tutto questo tempo. Cosa pensi dei tuoi rapitori? No, che non mi hanno trattato bene e che non sono tanto criminali come dicono tutti. Subito dopo l'incontro con il padre a Volterra, Augusto De Megni viene portato in elicottero a Perugia. Finalmente è a casa. Mio figlio e mio marito sono andati a incontrarlo. Quindi la mia gioia lei la può immaginare. Al termine del processo, tutti i sequestratori di Augusto De Megni sono stati condannati. Ma per Dino De Megni c'è ancora un'ultima questione da sistemare. Staffa si è comportato bene con Augusto, forse perché anche lui ha un figlio della stessa età. Quindi questo bambino indirettamente ha avuto forse una funzione molto importante in tutta la vicenda. E io, aiutando la moglie di Staffa, intendo soprattutto cercare di aiutare questo ragazzino perché cresca in un ambiente più sano di quello che forse lo aspetta. Dopo 14 anni dal sequestro abbiamo incontrato Augusto per chiedergli delle sue emozioni di allora e cosa gli è rimasto di quell'esperienza. Che cosa resta di quel bambino di 10 anni? Un ricordo che me lo tengo dentro gelosamente perché fa parte comunque del mio passato, fa parte della mia vita e fa parte di una brutta avventura superata. Ma avevi paura? Beh, penso sia... No, normale certo, no, ma ti ricordi la paura di quel momento? Sì, mi ricordo la sensazione della paura. 4 mesi così, il tempo, come lo percepivi, il tempo che passava? Non avrei mai creduto aver passato 4 mesi, ma forse... Ah, sì. 5 anni, 6 anni, cioè io ero convinto che sarei morto lì dentro, ero convinto, quindi non mi rendevo conto del tempo che passava, non scorreva anche le giornate, forse avrò dormito 2 ore, 3 ore per notte. E tu avevi la sensazione, la paura? Ti dicevano che loro non volevano pagare, per esempio? Sì, beh, c'era, loro mi fomentavano contro la mia famiglia, senza dubbio, perché... E tu hai sentito piano piano venire su una rabbia contro la tua famiglia, sì, o no? Sì, in quella che poi è classicamente chiamata sindrome di Stoccolma. Certo, naturalmente, cioè sì, c'è proprio un'identificazione poi, assoluta. Poi comunque sì, a 10 anni è ancora un bambino, quindi ero certo. Facilmente raggirabile. Ecco, ma sei stato tu a chiedere a tuo padre di aiutare... La moglie del rapito oppure no? No, le cose sono andate diversamente. Cioè? Io ho un ricordo vago. Io mi ricordo solamente di questo mio interessamento da parte di mio padre, sì, nel poter aiutare indirettamente il figlio di uno dei miei sequestratori. Sì. Che aveva la tua età. Sì, aiutando quindi la moglie per poi aiutare lui di riflesso. Senti, ma tu con questo staff avevi instaurato un rapporto diverso degli altri? Il fatto appunto che lui avesse un figlio della mia età è stato sicuramente un elemento importante. importante nel nostro rapporto. Ma perché te lo diceva lui o l'hai scoperto dopo? No, lui mi ha detto, non mi ricordo in quale periodo, comunque nei primi periodi della mia prigionia, che lui appunto aveva un figlio della mia stessa età, quindi magari cercava di dirmi: guarda, stai tranquillo, io posso capire la tua situazione, perché sai, io non voglio farti del male, perché morirei se qualcuno facesse male a mio figlio. La tua giornata come passava? Così. Il silenzio, la riflessione. Al buio eri? Ogni tanto ho avuto, soprattutto gli ultimi 2 mesi, immagino, comunque l'ultimo periodo, ho avuto una candela. Una candela? Una candela, sì. Senti, ma il tuo carattere ti ha aiutato? Io penso di sì. Ti ricordi di qualche riflessione che ti è venuta in mente? No, io inizialmente ero frastornato, perché comunque era una cosa più grande di me, non riuscivo a capire bene cosa stesse accadendo. Poi mi sono reso conto col tempo, ho comunque capito il tipo di situazione che si era creata, e c'erano momenti di ottimismo, di comunque ecco un po' di speranza, insomma, di speranza, e dei momenti in cui magari mi buttavo giù. Ma fondati giù su cosa? Cioè cos'è che ti dava qualche... Fondato da piccole cose, l'atteggiamento le parole che ti magari dicevano, magari da un mio pensiero. Tornando al giorno di quando ti hanno sequestrato, tu di quella notte hai qualche ricordo? No, io ricordo i perfetti di tutte le fasi del mio sequestro, sì. Senti, ma tu credevi quando ti dicevano che i tuoi genitori non volevano pagare? Assolutamente sì. Ah, ci piace. Sì, sì. Ero convinto, io pendevo dalle loro labbra, quindi qualsiasi cosa mi avessero detto per me era oro colato. Io prendevo per buono tutte le loro parole, interpretavo col loro pensiero tutto ciò che mi dicevano, quindi facevo parte della loro mentalità, del loro modo di vedere le cose, completamente. Mentre trattava coi Nox fuori da quella buca, Staffa ti teneva una pistola puntata sulla testa. Sì. Tu però, appena liberato, hai detto: lui sotto sotto mi diceva che non mi sparava. Cosa, cercava di tranquillizzarti? Sì, sì, c'è stato comunque da parte sua un venirmi incontro, un magari cercare di tranquillizzarmi dicendo: guarda, devo fare così per ovvi motivi, cioè cercava di perché comunque voglio come provare. Manifestazione più per l'esterno che per te. Sì, ecco, senti, ma è vero che lui ti spingeva fuori dalla buca e tu non volevi andare perché avevi paura? Beh, comunque io ero stato in una situazione con 3 uomini incappucciati dentro la buca per 4 mesi. Guardavo fuori, ne vedevo 1000 in cappuccia, ho detto: beh, quasi ne fanno 3 rispetto a 1000. Preferisco i miei 3 che li conosco. Sì, lì la sindrome di Stoccolma lì era fortissimo. È molto forte, proprio... Cioè si manifesta in che cosa? Proprio in un'identificazione totale? Si manifesta, sì. Io credo di aver avuto in quei momenti lo stesso pensiero loro. Sì. Mi ero identificato proprio nel, come se fossi il quarto di quella banda. Ma se dovessi dire una cosa veramente che ti resta, che pensi di avere imparato da quell'esperienza, c'è qualcosa oppure no? Dunque, sicuramente io dalla mia storia ne posso evincere che non tutto il male è comunque fatto, ecco, per essere negativo, perché comunque io sono convinto che mi ha dato qualcosa, mi ha dato una forza in più, una marcia in più, e anche l'idea dell'importanza della vita, sì, forse. Sì, anche comunque un bagaglio di esperienze che magari, ecco, non dico di cui posso vantarmi, però che sicuramente mi ha aiutato a crescere.